Ho emozioni nel cuore, sento le vene scoppiare, ricordo sensazioni che ho voluto provare e anche il dolore mi sembrava immenso, sentivo dentro tutto il tormento del mondo, soffrivo fino in fondo e alla radice rimaneva qualcosa diverso da ciò che sembrava, sembrava meno dolore e alle volte le sere passate da sole sembravano leggere, eppure mi riperdo nella mia stanza. Qualcosa resta, qualcosa che abbia un senso, poi ci deve essere. Essere migliore non è sempre il giusto, bisogna essere il più veri possibili. Ho perso ore e ore a seguire un sogno, chimere, leggere sere, ad aspettare invano qualcosa che tornasse, ma in fondo camminare verso qualcosa è ciò che bisognerebbe fare, una direzione. Essere sempre nella posizione giusta, ma chi è scomodo, chi ha solo una stanza, senza affetto, e tutte quelle volte vorrei dirti che l'amore, da pensieri, da cose vere, da dolori, in fondo vorrei dirti soltanto che amarti non è la sostanza del mio essere, ma il mio cuore a volerlo, non c'è soluzione. Ogni volta che ti vedo vorrei scriverti una canzone, vorrei dirti parole che rimangano nel profondo, anche se poi non staremo insieme in questo mondo, la sostanza di ciò che siamo è prendersi per mano e camminare con la testa libera tra tutte le pene. Vere sere, ricordo leggere le paure di toccarti quella notte, quelle volte che rimango da solo a pensare che avrei dovuto farlo, invece la paura fotte rimane sulla superficie, sostanza essenziale della mia cicatrice. Parlo della superficie perché qua in fondo si sta ad aspettare il mare. Culla, è vero, culla come dentro un mistero, ma intanto nulla intorno cambia, qualcosa resta sempre uguale e tutto stagna. Un giorno nel giardino più prezioso io coltiverò un fiore, quel fiore lo chiamerò amore e dirti parole sarà la mia inutile rovina. Perché alla fine questo mondo spara sempre al cuore, leggere le ore ritornano, faremo l'amore e nulla di tutto così sbagliato sembrerà in fondo questo grande prato dove correre destrieri che mangiano polvere, i nostri sogni sono questi destrieri, velieri che sembrano orizzonti spaventosi, a volte rimango da solo e chiudo gli occhi, meno confusi. I miei bisogni ora sono qui, cerco di capire, di ascoltare, di scrivere cose che abbiano un senso, ma in fondo tutto quanto sprofonda, tutto quanto è silenzio, e a volte nel silenzio c'è più dolore, ma se lo si ascolta bene c'è anche amore, a volte senza tornare, a volte vorrei solo camminare. E dirtelo di nuovo e di nuovo, tutte le volte in cui sono rimasto solo, avrei voluto amarti, avrei voluto sognarti, e tutte quelle volte invece eravamo così tanto distanti, amanti è vero, dentro un pensiero piccolo che poi diventa grande come un incubo che alle volte schiaccia, l'amore fa male, lo si vuole evitare, lo si vuole evitare. Perché? Perché?